Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Salute Weekend. Come d'abitudine apriamo con la nostra copertina che anche questa settimana è dedicata al SARS-CoV-2. In linea con noi abbiamo il professor Marcello Tavio, che è presidente della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive Sessualmente Trasmesse, e direttore dell'unità operativa di malattie infettive all'ospedale Riuniti di Ancona. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Allora, professore, tante notizie, tante domande, facciamo il punto della situazione. L'Italia cambia colore, l'RT, l'indice di riproduzione, scende sotto l'1, e questa è una buona notizia, ma il numero dei decessi purtroppo non cala. Professor Tavio, come possiamo mettere insieme questi dati? Indice RT sotto l'1 vuol dire che su 100 persone che hanno l'infezione, nell'unità di tempo considerata, per esempio una settimana, prenderanno l'infezione 100 altre persone se l'indice è uguale a 1. Se è meno di 1, meno di 100 persone, quindi l'epidemia va a ridursi quanto più velocemente, quanto più l'RT è basso, quindi è vicino allo zero. Il fatto che le due curve, quella dei casi e quella dei morti, sono dissociate non deve sorprendere, perché il picco delle due curve, cioè il momento in cui cominciano a scendere i casi e i morti, sono sfasati di 2-4 settimane, perché purtroppo la malattia ha un certo tempo di latenza rispetto alle statistiche che porta a sfasare i due picchi. Quindi ci aspettiamo che i morti scendano consistentemente a 2-4 settimane dal momento in cui sono scesi consistentemente i casi. Professor Tavio, il Natale alle porte e molti stanno valutando l'opzione del tampone rapido per godersi, naturalmente con tutte le dovute attenzioni, pranzi e cenoni. Lei che ne pensa, professor Tavio? Può essere un'idea? Penso che sia senz'altro un'idea da prendere in considerazione, tenendo presente che la sensibilità del tampone rapido non è quella del tampone molecolare. Quindi bisogna stare molto attenti nell'interpretare il risultato e eventualmente consigliarsi con il medico di fiducia. C'è un momento ideale, a distanza di quanti giorni dall'incontro con i parenti, lo stesso giorno, il giorno prima, e tra l'esecuzione del tampone e l'incontro, il pranzo, la cena con i parenti, magari si va a trovare il genitore anziano, quali sono le attenzioni e le precauzioni da adottare? Ma molto semplicemente, quando uno fa il test ci dice qual è la situazione relativamente al Covid in quel momento, per cui è chiaro che non può essere fatto 10 giorni prima, perché nel frattempo uno potrebbe aver avuto un contatto contagioso e avere l'infezione ed essere in grado di trasmetterla. È chiaro quindi che questi test vanno fatti il più vicino possibile al momento di socialità. E nel tempo che intercorre tra l'esecuzione del test rapido e il momento di socialità, professor Tavio, e quali attenzioni è bene seguire? Imporsi una sorta, mi passi il termine, di quarantena? Beh, dipende dal livello di rischio di ogni singola persona. È chiaro che se qualcuno è stato a contatto con un malato di Covid è opportuno fare la quarantena classica. Certo. Quindi le 2 settimane senza test oppure i 10 giorni con il test al 10° giorno. Ci sono molti casi singoli che vanno esaminati con attenzione. In genere diciamo che la prudenza in questi casi non è mai troppa, e in ogni caso, se anche nei momenti sociali, se non è proprio indispensabile continuare, venirne meno, continuare ad avere un atteggiamento prudente, quindi quel minimo di distanza e di attenzione al contatto stretto. Professor Tavio, l'agenzia del farmaco britannica Dopo le due reazioni anafilattiche verificatesi nel Regno Unito nelle prime ore della campagna vaccinale anti-Covid con il vaccino Pfizer-BioNTech, sconsigliano anche a chi soffre di gravi allergie anche alimentari di sottoporsi al vaccino. La comunità scientifica naturalmente si interroga. Questa posizione potrebbe avere delle ripercussioni anche pesanti sulla campagna vaccinale. Stiamo parlando della campagna vaccinale più imponente e più importante degli ultimi tempi nella storia mondiale. Certo, questo è un discorso molto delicato, perché rischi e benefici di una campagna vaccinale su scala globale vanno considerati con grande attenzione. Credo che sia una posizione prudente quella che hanno preso le autorità regolatorie britanniche, di salvaguardia, di garanzia per la popolazione generale. In realtà stanno maturando dei dati in altri studi che evidenziano un buono, se non ottimo, profilo di sicurezza, oltre che una grandissima efficacia da parte dei vaccini. Credo che sarà presto argomento di un'ampia discussione anche con la società civile, per capire effettivamente quanto possiamo ottenere da una campagna vaccinale. Teniamo presente che una campagna vaccinale riesce nella misura in cui riusciamo a vaccinare la stragrande maggioranza delle persone. Quindi credo che su questo tema dovremo tornare molto presto. Professore, lei che cosa si aspetta? Io a questo punto temo soltanto che le persone non abbiano l'attenzione necessaria per evitare di prendere l'infezione da SARS-CoV-2 proprio in questo momento che stiamo vedendo la fine del tunnel. Ovvero, se è vero come è vero che tra poche settimane comincerà la campagna vaccinale, sarebbe veramente il colmo contrarre l'infezione adesso e rischiare la vita, quando fra poco potremo vaccinarci in condizioni di sicurezza molto elevata. È chiaro che non si può pretendere da un trattamento medico il 100% della sicurezza, che non esiste in medicina, però un grado molto elevato, quello è giusto pretenderlo ed è giusto che noi lo offriamo alle persone. Professor Tavio, come passerà il Natale? Il presidente della più importante società scientifica che riunisce gli infettivologi? In famiglia, nel mio comune e in condizioni di sicurezza e tranquillità. Professor Tavio, auguri, le auguro una buonissima giornata e buone feste. Buone feste a lei e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Bene, adesso facciamo una piccola pausa, torniamo subito dopo insieme, restate con noi, e ci aspetta Andrea Vitali per raccontarci una storia. Obiettivo Salute Weekend. E c'è un'altra storia da dire, una favola da raccontare, un amore che non può finire, una pagina da inventare. E c'è un'altra storia da dire, un aquilone che non sa volare, un uomo che presto andrà a morire, una pagina da colorare. E siamo tornati insieme, un appuntamento che io amo in modo particolare, perché in questo spazio del sabato raccontiamo storie, storie che raccontano altre storie, che forse hanno qualche cosa da raccontarci. È sempre stato così, da che mondo è mondo, e in linea con noi anche questo sabato è tornato a trovarci Andrea Vitali, a cui abbiamo chiesto: Andrea, raccontaci una storia. Ciao Andrea, buon sabato. Buongiorno a tutti, ciao Nico, parlavi di mondi, questa è appunto una storia che giunge da un mondo molto lontano, da una penna altrettanto lontana, ma una penna che nel breve o nel lungo lascia sempre delle impressioni profondissime, perché è la penna di Murakami Haruki. Questa è una storia che si svolge in Thailandia, i protagonisti, è un racconto, i protagonisti principali sono due, ma una parte non indifferente spetta anche agli orsi polari. Certo, è lecito che uno si chieda cosa c'entrano gli orsi polari in un paese così caldo, vabbè, si vedrà. Passiamo ai protagonisti, come si è detto sono due. La prima è una donna, un medico, una specialista in malattie della tiroide, è afflitta dalle vampate della menopausa, ma soprattutto porta con sé un malessere interiore molto profondo a causa di un matrimonio che è andato a pezzi, cova un rancore, quasi addirittura un odio verso l'uomo che le ha rovinato la vita, a tutti. Desidera fantastica sulla sua morte, però adesso si trova a Bangkok per un congresso che è appena finito e ha deciso di regalarsi una vacanza di una settimana per ritrovare un po' di tranquillità. A gestire quella parentesi di relax penserà Nimit, il secondo protagonista della storia. Un affabile autista consigliatole da un amico che per oltre 30 anni è stato alle dipendenze di un uomo d'affari lappone trapiantato in quel paese e che alla sua morte gli ha lasciato in dono la Mercedes con la quale scarrozza la dottoressa. Questo Nimit però non è un semplice autista o una specie di tuttofare che facilita la vacanza della dottoressa, visto che conosce i posti, insomma la accompagna in una piscina dove può nuotare per lunghe ore in solitudine oppure le fa trovare dei tramezzini sempre pronti quando ha fame. Nimit non si è mai sposato, ha vissuto in simbiosi con il suo datore di lavoro e probabilmente questa simbiosi ha sviluppato la capacità di indagare l'animo umano, tant'è vero che verso la fine di quella settimana di vacanza offre alla dottoressa la possibilità di liberarsi del rancore che cova. E come fa? Vabbè, lasciamo al lettore di questo splendido racconto di Murakami la sorpresa, perché adesso tocca agli orsi. La vacanza è finita. I due sono all'aeroporto e Nimit, prima di congedarsi, ricorda di quando il lappone gli descrisse la vita degli orsi polari, solitari per tutto l'arco dell'anno, tranne che nel momento dell'accoppiamento. Ma anche in quel caso frettolosi, con la prima femmina incontrata per poi scappare, quasi fuggire, e riprendere per un altro anno una vita solitaria, priva di alcuna relazione. Al che lo stesso Nimit aveva obiettato. Ma allora, per cosa vivono gli orsi polari? E noi, Nimit, noi per cosa viviamo? Aveva ribattuto il lappone con un sorriso, lasciandogli quel punto interrogativo a galleggiare nella coscienza. Andrea, che cosa ci racconta, che cosa ci insegna questa storia? La morale? Beh, direi che questa è una storia che ci può insegnare molto, perché sul senso della nostra vita, insomma, è una cosa che probabilmente è capitata a molti di noi, soprattutto in virtù del periodo che stiamo ormai passando. È capire se veramente la vita degli orsi polari è talmente vuota da poterla passare in solitudine, oppure se questa solitudine è una solitudine invece piena di cose che permette agli orsi polari di sopportare in piena lievità questa solitudine. Ribaltando la questione, bisogna pensare alla nostra vita, se la nostra non sia talmente piena di cose inutili che ci impediscono di pensare a quello che è il senso vero di quello che facciamo, di quello che pensiamo, di quello che diamo. In fondo, Andrea, insomma, gli orsi polari ci insegnano a togliere peso, a togliere pesi, oppure magari solo togliere peso ai pensieri, liberarsi un po' da queste zavorre che ci legano alla vita quotidiana, insomma, lasciare a casa il superfluo e mettere nello zaino solo il necessario. È un'immagine che ci ha portato dritto dritto all'ospite di oggi, che è in linea con noi, Simone Moro. Un abbraccio grande, forte e stretto. Ciao Simone. Ciao, ciao Nicoletta. Alpinista italiano tra i più apprezzati al mondo, autore di grandi imprese come quelle al Naga Parbat del 2016, con in tasca il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli 8000 metri. Simone, l'hai detta giusta, l'hai finalmente detta giusta. A forza di ripetere tutte le volte c'era qualche, e invece adesso è così, eccolo qua. Perfetto. Simone, sulle vette più alte del mondo, a meno 30 gradi, è bene portare lo stretto necessario, quello che serve. Per prima cosa è necessario perché te lo porti tutto nello zaino. Noi non siamo abituati a trasportare ciò che abbiamo, siamo abituati ad averlo a portata di braccio o a portata di stanza. Di stanza, non di stanza come unica parola, cioè nella stanza accanto. Quando invece ti devi portare tutto nello zaino, al campo base, diventi anche efficiente per forza, perché non è che puoi portarti una tonnellata di materiali con tutte le cianfrusaglie. Seconda cosa, capisci che quando sei in certe situazioni ciò che realmente ti serve per sopravvivere o per vivere una, diciamo così, una quotidianità decorosa, in realtà è poco. E quando scopri questo, ti abitui anche ad avere poco, che non significa che non apprezzi quando c'hai un qualcosa in più, ma capisci che è comunque qualcosa di non necessario. Insomma, non entri nella psicosi dell'acquisto per avere qualcosa in più, perché ti sei abituato a vivere, gioire e a sopravvivere anche nella tua quotidianità con quello poco che in realtà noi abbiamo bisogno. Andrea, insomma, è una perfetta filosofia dell'orso polare. Assolutamente, credo che la figura dell'orso polare si adatti perfettamente alla figura, diciamo, che ha trattato Simone Moro, che quella solitudine, diciamo, quel silenzio non siano assenza, non siano vuoto, ma siano anzi ciò che definisce perfettamente il carattere, diciamo, e i desideri dell'uomo o dell'orso polare, cosa che noi no, ovviamente non possiamo sapere, perché non possiamo capire cosa passa nel cervello di un orso polare. Simone, questo è stato un anno lungo, sofferto, dove più volte ci è sembrato proprio di toccare il fondo, no? Ma dalla tua esperienza, che tra l'altro racconti nel tuo libro Ho visto l'abisso, sottolinei come tutti noi abbiamo un grande potere in mano, quello di modificare una situazione di partenza attingendo alle nostre risorse interiori. Allora, innanzitutto è sempre bene ricordarsi, proprio ognuno di noi, che quando tu ti trovi ad affrontare una situazione o un problema, devi capire quali sono o se ci sono le alternative. Mm. Beh, nella situazione che noi abbiamo vissuto, di alternative non ce n'erano molti. No. O lasciarsi morire di noia, di apatia e di tristezza perché non potevamo fare questo, questa cosa, o non potevamo vedere Tizio e Caio, o non potevamo fare certi viaggi. Oppure l'alternativa era ritrovare o trovare una nuova dimensione in una costrizione che, come abbiamo detto, non aveva alternativa se non quella di subirla. Ebbene, quello che è saltato fuori, e spero che cambi anche il modo nostro di vivere quando questa pandemia sarà vinta e sconfitta, è che abbiamo capito che ciò che per noi era ovvio, cioè le ovvietà, tali non erano. Era ovvio per noi chiamare un amico e trovarci per bere qualcosa assieme, era ovvio per noi andare a trovare gli amici, era ovvio andare a trovare la mamma, era ovvio fare un viaggio, era ovvio prendere un biglietto aereo, andare all'aeroporto e andare da qualche parte senza problemi. Abbiamo capito che non solo non è ovvio, ma erano delle grandi ricchezze. Quindi noi oggi possiamo riappropriarci con una percezione diversa di cose che speriamo tornino velocemente, ma che io spero che riconquistiamo con una consapevolezza diversa. Quindi noi abbiamo abituato anche a stare in uno spazio limitato, nel senso che siamo stati confinati e siamo ancora confinati o in casa o in un territorio. Molti lo hanno riscoperto, molti hanno riscoperto anche se stessi, perché quando stai da solo ti impari anche a conoscere te stesso, impari, ti guardi allo specchio un po' di più, prendi consapevolezza dei tuoi limiti e ti guardi anche un pochino dentro. Senti, Simone, a proposito di limiti, tu hai annunciato la meta della tua imminente spedizione invernale, la salita del Manaslu. È un massiccio montuoso situato nel Nepal centrale, correggimi, nella catena montuosa dell'Himalaya, la cui vetta più alta raggiunge gli 8.163 metri. Stiamo parlando dell'ottava montagna più alta del mondo. Questo per te è il terzo tentativo. Esattamente, e immaginatevi un po', io sto partendo adesso, ma non è che ho vissuto su Marte. Ho vissuto anch'io confinato in casa, ecco. E quindi cioè, non è che parto alla Garibaldina, io devo partire preparatissimo e allenatissimo. E come pensate che io abbia fatto, visto che ho anche rispettato rigorosamente tutte le regole? Mi sono fatto un mazzo atomico, non più per i pendii delle montagne, ma in casa. Ecco. Quindi è la prova provata che se vuoi qualcosa ti adatti a qualsiasi situazione. E quindi io anche da test che ho fatto adesso sono in forma come se mi fossi allenato per un anno fuori, come ho fatto per le altre spedizioni. Quindi sono motivato e voglio chiudere il cerchio, spero di arrivare in cima questa volta. Di solito la terza è quella buona. Sicuramente, Andrea, a te la chiusa, a te la chiusa dopo questa riflessione che, di Simone, che ci carica tutti. Sì, mi sembra un messaggio molto importante che debba essere acquisito e metabolizzato, perché l'usura, diciamo, di questo periodo sta creando, sta infettando un po' la resistenza, diciamo, l'umore di parecchie persone, per cui è un messaggio, diciamo, estremamente positivo e che deve arrivare al bersaglio. Allora, io ringrazio Andrea Vitali che ogni sabato viene a raccontarci una storia da cui prendiamo spunti, frammenti di riflessione. Ringrazio e abbraccio Simone Moro. Avanti tutta. Io voi. Grazie. Avanti tutta. Sì. Avanti tutta. Grazie, grazie. Grazie mille. Grazie a Pietro La Corte in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. La Nico torna domani alle 12 per la bufala in tavola. Vi aspetto e non mancate una buonissima giornata.